Questa è Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Per acquistare i libri esclusivi di Manunat Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Mi arriva una domanda che è stata ripetuta due volte. La prima volta è stata pubblicata sul sito Ishvara, sul forum di Ishvara, il 7 di luglio del 2011. Chiedo scusa per il ritardo, ho già spiegato come questo periodo è stato molto intenso per me. Ho parecchie email di arretrato, anche di vari mesi, in tre lingue diverse. Davvero ricevo molte domande. Dunque, questa domanda dice: apro questo thread per chiedere informazioni su come un devoto di Krishna deve ricevere e trattare gli ospiti Vaishnava e anche quelli che non sono devoti di Krishna. Hare Krishna Bhatta Orlando ripete oggi la stessa domanda. Ripropongo la mia domanda, sottolineo che vorrei cortesemente che nella risposta si specificasse la differenza su come trattare ospiti Vaishnava e come trattare ospiti che non sono devoti di Krishna. Beh, mi pare che su come trattare ospiti che non sono devoti è questione di buon senso comune. Sono sicuro che qualsiasi persona possa spiegarti come trattare un ospite che viene a casa. Lo si tratta con gentilezza, no? Gli si dà qualcosa da bere, lo si fa sedere. Si deve sempre essere gentili, in modo che uno si senta a casa propria. Questo è importante non soltanto per nell'ambito del mondo materiale, cioè della società comune in cui viviamo, ma anche nella nostra cultura. Qualsiasi persona che viene al tempio la si tratta molto bene. Siamo contenti che questa persona sia venuta a trovarci. La trattiamo nel modo migliore, gli si dà un posto a sedere, gli si offre del prasadam, ci si siede a parlare con loro per vedere di rispondere a domande, per farli sentire a casa propria. È importante che quando una persona ci visiti deve sentirsi a proprio agio. Quando chi visita la nostra casa è un devoto di Krishna, beh, dipende che devoto di Krishna è, perché il mondo delle etichette Vaishnava è un mondo complesso, vario, no? Nel Mahabharata è detto che quando Draupadi stava per essere insultata dai Kurava, da Dushasana e gli altri, si avvicinò a Bhishma, che è uno dei 12 Mahajan, quindi una grande autorità in materia vedica, e chiese lui come mai non diceva niente. Una donna in balia di un gruppo di villani che la stavano spogliando davanti a persone rispettabili, a re, a saggi. Perché non diceva nulla? Bismadeva in quell'occasione, seppur con un velo, e probabilmente parecchio più di un velo, di tristezza, disse che le strade, le vie del Dharma sono molto complesse, sono molto variegate. L'etichetta è parte del Dharma, è parte del dovere, e cioè come ci si deve comportare in varie circostanze e con varie persone. Quindi non è facile rispondere nei dettagli in questa circostanza, se l'argomento sarà interessante, allora magari eventualmente potrete, chi sarà interessato a questo argomento, potete fare domande più specifiche. Se ad esempio chi viene a trovarci a casa è un devoto, un proprio amico, insomma, della stessa età, sia fisica sia spirituale, la si tratta con amicizia. La si tratta dandogli un posto a sedere, le cose normali, si fanno gli omaggi, questo è importante, fa parte della nostra cultura, rendere pranams, chinandosi in terra, toccando la fronte il pavimento, mentre si recita il mantra del proprio maestro spirituale. E l'altro devoto fa lo stesso. Dopodiché due devoti in amicizia parlano di coscienza di Krishna, della propria vita, parlano del servizio devozionale. Come dice la Bhagavad Gita, i devoti provano grandi piaceri a stare insieme e illuminarsi l'un con l'altro discorrendo della coscienza di Krishna, cantando il mantra. Si possono fare tante cose. Quando invece chi visita la casa è un devoto superiore, un devoto anziano, un devoto più esperto, un devoto più erudito o addirittura il proprio maestro spirituale, si deve fare gli omaggi e si deve porre domande. Non si deve trattare il devoto più anziano trattando come se fosse uguale. È importante che ci sia una forma di rispetto. Questo è importante per sviluppare determinate qualità. Se trattiamo tutti alla stessa maniera, non sviluppiamo qualità come il rispetto, tutte queste sono cose importanti per il nostro avanzamento spirituale. L'orgoglio, l'arroganza, la presunzione, dice ma chi è questo? Vabbè, c'ha 20 anni più di me, all'età di mio padre o di mio nonno, che importa, è una persona, un uomo come me. La trattiamo alla stessa maniera. Questo non va bene, non sviluppa, il Vaishnava non è mai arrogante, non è presuntuoso. E una cosa importante quando si riceve la visita a casa di un predicatore, di uno che ha dato la sua vita per diffondere la coscienza di Krishna, è eventualmente organizzargli un programma di predica, cioè chiamando a casa amici, parenti, no? E fare una cosa molto semplice, cantare e lasciandolo parlare il devoto e dargli rispetti, no? Questo è importante. Poi tutte queste etichette variano secondo il devoto. Certamente il devoto più anziano, che sia confratello è una cosa, o che sia un cugino è un'altra cosa, o che sia un confratello del maestro spirituale è un'altra cosa, se è un sannyasi è una cosa, se è un vyasa è un'altra cosa, è molto complesso, molte diramazioni. Se ci sono domande più specifiche, tu o altri che sono interessati a questo argomento, potete farle e volentieri risponderò. Hare Krishna. Era lui stesso, ma ti richiamava il browser. Poi le altre versioni dell'hot dog invece l'aveva integrato, però faceva differenza, evidentemente c'era qualcosa che non andava, perché spesso con il browser di hot dog non vedevi la stessa cosa che vedevi questo è un fatto di compatibilità. Infatti lui lo sa bene. Tra l'altro io non ho dietro la telecamera. Tra l'altro io non ho mai usato il browser di Windows. Internet Explorer? Ma io l'ho cominciato a usare 2 anni fa, io usavo un Escape. Agli inizi era così, adesso perché ha preso il sopravvento, sì. Ma io ho sempre usato un Escape per tutta Mozilla. Io Mozilla non ho. Forse non esisteva neppure Explorer. Non lo so se quando... Non lo so però. Che cosa è successo? È successo che il sito ha cominciato a crescere, perché siccome avevo tanti iscritti... Quindi, ma era già il sito di Isvara questo? No, questo si chiamava... Ah. Era siccome sì. Fa un proprio dominio, tutto quanto, aveva dei costi, E lui mi ha detto: guardi, io ti ospito gratuito. Tra l'altro, che Tailandia è stato meraviglioso Cioè, poi quei perché tempi costano maggiori costava maggiori. anche perché. Tailandia è stato fantastico perché mi ha ospitato, ci ha ospitato gratuitamente sui suoi server per tanti anni. È soltanto che non c'era bisogno di un dominio perché l'alias del suo Giusto, Mediarama.com era sì, vaikunta.com, barra e barra quindi veniva, Vaishnava era quindi allora, è semplice perché si fa direttamente. www.vaikunta.com barra Vaishnava era il nostro sito. E allora una volta che ho incontrato Tridandi, gli ho fatto: Tridandi, io non sono stanco di mandarti gli articoli, tra l'altro io ora li faccio direttamente in HTML, quindi dammi. Allora lui mi ha dato il primo del FTP. client FTP, che era il WS, si chiama? US WWW? Pro, Winsock, Non ricordo, insomma. E allora ho cominciato a scaricare. Winsock Pro. No, si chiamava WS, WS qualcosa. Sì, ma è l'acronimo di Winsock. Ah, ecco. È WS Pro o qualcosa del genere? C'è ancora, è ancora uno dei Sì, migliori. tra l'altro. Ora usiamo tutti QLedit, no? Però, No, allora, no, QLedit è dell'altro, dici con QTFTP come si chiama? QTFTP, Anche quello è storico, sono due, Winsock. esatto. Poi che cosa è successo? È successo che abbiamo cominciato a scaricare le cose direttamente da noi, per conto nostro. Ora Certo. il mio amico, carissimo amico Tridango, Anche perché non una c'entrava più. volta via email, No, veniva inviato via email. era impossibile. Dunque, il sito internet allora andava benino, ricevevo delle. Tra l'altro non era interattivo, quindi non avevo neanche tanta idea di quanta gente venisse, però mi ricordo che avevo messo alcuni contatori e vedevo che correvano questi contatori, quindi evidentemente la gente veniva a vedere il nostro sito. E poi cosa è successo? Poi è successo che il sito si è sviluppato parecchio, abbiamo desiderato avere un nostro nome personale, questo credo, no? Non vorrei In che sbagliare, anno? io non vorrei sbagliare, ma io credo che sia 1998, puoi guardare sul link di La Visa, registrazione, la si registrazione. parla di isvara.it, Isvara.it, questo dominio. isvara.it, credo che sia, sì, credo che sia il Bisognerebbe 98 vedere forse. quando è stato creato il Sì, dominio. questo. Ma poi com'è stata la storia? La storia era che la predica andava benissimo su questo sito, però appunto non c'era interattività. Perciò i risultati concreti della comunicazione era, secondo me, un sito che ha scopi educatori come il nostro deve avere interattività, se no Sì. non riesci neanche a misurare il successo che hai. Per cui ero contento, contentissimo anzi del nostro video, però in qualche maniera poi io mi ritirai in India e in India cominciarono i guai. Cominciarono i guai perché l'India è un posto dove non funziona assolutamente niente. E quindi io ricevevo le email quando riuscivo a riceverle, quando una scimmia non si mangiava il filo del telefono, e ricevo le email, dovevo poi fare il sito in Ma HTML. e avevi già un portatile oppure dovevi Il andare in qualche portatile. luogo? Avevo un portatilino e in più avevo comprato un computer fisso, soltanto che siccome l'energia elettrica va via in continuazione a Vrindavan, avevo messo delle batterie con un USB, come si chiamano queste cose, UPS. con l'OPS, che però non era abbastanza potente per sopportare il monitor, e quindi il monitor si spegneva sempre tutto, anche il driver si spegneva. Ed ero estremamente scontento, insomma, perché dovevo fare queste pagine, poi dovevo riconnettermi quando ci riuscivo, l'FTP non funzionava e Tridandi poi stava facendo dei lavori, per più di 2 settimane non sono riuscito ad aggiornare il sito e io vedevo, già mi continuavano ad arrivare le email, non poi, insomma era una situazione in cui non ero molto contento. Un bel giorno arriva un ragazzino di 16 anni, indiano, che si chiama Murari, viene da me e comincia a parlarmi della SP. E Dell'interattività, eh. comincia a dire: ma sai che tu puoi stare qua, la gente va per conto suo nel sito e pubblica per conto suo gli articoli, non c'è bisogno che tu fai tutta questa storia. E io ho cominciato a sentirmi attratto, sono andato addirittura a Delhi a comprare dei libri che io ho ancora a Porto Rico, dei libri sulla SP. Lo pregavo di insegnarmi, ma lui faceva l'indiano, insomma, non Sì, non faceva mai niente. Là ero così attratto alla predica su internet, avevo il desiderio di predicare, di fare una radio, di fare una televisione, che alla fine io ho preferito andare via dall'India, ho chiesto a Krishna Prabhupada cosa loro volessero da me, ho capito che volevano che io predicassi su internet e siamo venuti A Porto Rico. A Porto Rico. È successo che io ho cominciato, ho visto che non riuscivo da solo a imparare SP. Non ci riuscivo perché, tanto che in quel periodo c'era anche Gopale che veniva lì e cioè, ne parlavamo, lui però non lo conosce, però ne parlavamo. E proprio nel periodo che lui era a Porto Rico avevamo messo degli annunci chiedendo, e ora arriviamo a Infatti te, io vidi l'annuncio. degli annunci chiedendo alle persone se c'era qualcuno esperto di ASP che potesse aiutarci a creare un sito interattivo. Mi scrissero in quattro. I primi tre erano persone che mi scrivevano, io gli rispondevo anche a lettere abbastanza complesse perché mi chiedevano dati tecnici, mi chiedevano Però cose, comunque erano però interessati ero perché se interessato. Beh, chiedevano. al massimo due email, poi scomparivano completamente senza mai più farsi sentire, non capisco come mai. Potevano non contattarti su, cioè potevano non Qualcuno. rispondere. E invece un bel giorno si presenta un certo Marco e dice, Chissà chi. chissà chi è, un certo Marco sarà e questo. dice, ma io ne so qualcosa, posso aiutare, possiamo cercare di fare qualcosa insieme, no? Ma io ho detto, ma insieme io non so niente, che insieme? E infatti in quel periodo mi arrivavano le tue email, che poi Marco sei tu, e chiedevo a Gopala, dicevo, ma secondo te che ne pensi? Questo qui non è che mi dà un'altra delusione come tutti gli altri. E lui rispondeva alla Gopala, insomma, no? Ma boh, vediamo, chissà, chissà. Lui è sempre un minimalista, Ci vuole no? un'altra Ma telecamera ora. sì, per riprendere le mani, no? E cominciò invece l'era nuova di Ishvara, la nuova predica, ed è stato grazie a questa nuova epoca che ora tu racconterai, che Ishvara ora sta avendo il successo che ha. Tanta gente che si sta avvicinando, video Ishvara video che sta cominciando ora. Questo successo di persone, affetto che ci circonda, è senza ombra di dubbio dovuto proprio all'interattività del nostro sito. Perciò, se tu vuoi raccontare adesso la tua parte di storia che Ma comincia dove vuoi. penso l'hai raccontata benissimo tu. Avete ascoltato? Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. State ascoltando Radio Isvara. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Adesso vedete. Adesso mettilo così, sì. Scusate, ma problema tecnico. Non c'è nessuno. Vabbè. Continua. È molto difficile dunque sfuggire alla trappola della materia. Ma colui che in un modo o nell'altro incontri il tuo favore potrà, con la tua grazia, Entrare in contatto con un puro Bhakta, primo passo, questo, per uscire dalle reti dell'esistenza condizionata. O Signore, solo attraverso la compagnia dei puri Bhakta, tua grazia ci lega a sé. Tua grazia, che è il sovrano del mondo materiale e spirituale. Tu sei il fine ultimo di tutti i puri Bhakta, e in loro compagnia si può risvegliare il nostro amore per te, che si era assopito. La coscienza di Krishna coltivata a contatto con i puri Bhakta è la forza che libera dalla prigionia della materia. O Signore, così grande è la tua misericordia che nonostante il mio disdegno per la compagnia dei tuoi grandi devoti, tu mi hai mostrato la tua infinita misericordia solo per aver incontrato un puro Bhakta come Gardamuni. Soltanto la tua misericordia incondizionata mi ha fatto perdere la mia ricchezza materiale, il regno e la mia famiglia, di cui non avrai saputo liberarmi altrimenti. Re e imperatori abbracciano la vita di rinuncia per dimenticare gli aghi della loro esistenza regale. Gli agi. Agi. Ma io sono stato sottratto alla mia condizione regale grazie alla tua misericordia incondizionata. Gli altri re devono affrontare i disagi della rinuncia per troncare il loro attaccamento al regno e alla famiglia. Io invece, grazie alla tua misericordia, non sono dovuto diventare un mendicante e non ho dovuto praticare la rinuncia. Ha avuto il darshan diretto di Krishna. Krishna è venuto proprio a svegliarlo direttamente, personalmente. O Signore, che posso per sempre impegnarmi nel sublime servizio di devozione offerto ai tuoi piedi di loto, l'ambizione dei tuoi puri devoti, che sono liberi da ogni contaminazione materiale. Questa è la mia preghiera. Tu sei Dio la persona suprema e puoi darmi tutto ciò che desidero, anche la liberazione. Ma chi sarà mai quello sciocco che dopo averti soddisfatto vorrà chiederti in cambio nuovi legami materiali? E vieni paragonato con me. C'era una storia di una donna che era una lavoratrice che portava, che si vede in India, che per costruire la casa porta i mattoni in testa per trasportare da un posto all'altro. E questa povera donna, sono cadute le mattone e pregava: Signore, Signore, cosa faccio adesso? E Krishna apparsa proprio davanti a lei. Cosa posso fare per te? Mi rimette i mattoni in testa. Poteva chiedere: portami al mondo spirituale, basta con questa vita. No, invece rimettermi nei miei attaccamenti materiali. E questo è uno che prega per qualcosa materiale. Mi abbandono dunque a te, Signore Sovrano, anima suprema situata nel cuore di ognuno e radiosità del Brahman impersonale. Tu sei anche questo universo materiale, semplice manifestazione della tua energia esterna. Così, da ogni punto di vista di tutti, tu sei il rifugio supremo. Per molte e molte nascite ho sopportato le tre forme di sofferenza, propria dell'esistenza materiale, ma ora sono stanco. Legge queste preghiere come stiamo dicendo noi, nel senso... come se lo dicessimo noi. Sì, sono stanco. Non stanco, ma stanco della vita materiale. Dopo aver agito sotto la spinta dei sensi, senza mai conoscere la soddisfazione, prendo ora rifugio ai tuoi piedi di loto, fonte di pace e liberazione dalle tristezze che nascono dalla contaminazione materiale. O Signore, tu sei l'anima suprema in ogni essere, il tuo sapere perciò non ha limiti. Ora sono libero dalla contaminazione dei desideri materiali. Non voglio più godere di questo mondo e non desidero neppure fondermi nel tuo sfogorio spirituale o meditare sul tuo aspetto localizzato, il Paramatma, perché so che semplicemente prendendo rifugio in te conoscerò la pace perfetta. Ascoltata la preghiera del re Muchukunda, Krishna rispose: «Mio caro re, sono lieto di aver sentito da te queste parole e sono sorpreso ora, sorpreso nel vedere come, pur essendo stato il più potente re di questa terra, ora la tua mente sia libera da ogni contaminazione materiale. Adesso sei pronto per il servizio di devozione. Sono contento che tu non abbia chiesto alcun beneficio materiale, pur avendo la possibilità di ottenere da me qualunque favore. Questo è il sintomo che ora la tua mente è fissa in me e più nessuna imperfezione materiale la turba. Virtù, passione e ignoranza sono i tre guna. Chi si trova sotto l'influsso della passione e dell'ignoranza si sforzerà sotto la spinta della cupidigia e di altri desideri impuri di trovare la felicità in questo mondo, mentre chi è situato nelle virtù cerca di purificarsi attraverso varie austerità. L'essere che diventa un vero Brahmana aspira a fondersi nell'esistenza del Signore, ma quando non desidera nient'altro che servire i piedi di loto del Signore, raggiunge un livello superiore ancora, al di là dei tre guna. Il puro Bhakta, dunque, trascende ogni influsso materiale. O re, se ti ho dato la possibilità di chiedermi un beneficio, la tua scelta era per conoscere il tuo progresso nel servizio di devozione. Ora so che hai raggiunto il livello dei miei puri devoti, perché la tua mente non è più turbata da nessun desiderio materiale, da nessuna avidità e da nessuna cupidigia. Si ricorda Krishna che sta rispondendo a Muchukunda dopo le sue bellissime preghiere, dicendo che vedo che tu sei pronto per servirmi, hai finito con la vita materiale. Perché Krishna sa esattamente quello che c'è nel nostro cuore, non è che possiamo dire una cosa e pensarne un'altra. Neppure gli yogi che tentano di elevarsi attraverso il controllo dei sensi e meditano su di me praticando il pranayama, con lo scopo di dominare i movimenti respiratori, sono altrettanto liberi dalla materia, perché più volte si è visto che davanti alle tentazioni, esse ricadono sul piano materiale. Vishvamitra Muni ne è un vivido esempio. Grande yogi, egli aveva praticato a lungo il pranayama, ma quando Meneka, una cortigiana dei pianeti superiori, gli fece visita, egli perse ogni controllo di sé e concepì con lei una figlia, Shakuntala. Invece il puro Bhakta Haridas Thakur diede prova della più grande fermezza anche davanti alle lusinghe di alcune prostitute. O re, continuò Sri Krishna, che tu possa pensare sempre a me. Questa è la mia speciale benedizione. Così potrai attraversare liberamente questo universo materiale senza subire la contaminazione dei tre guna. Queste parole del Signore sono la conferma che una persona veramente assorta nella coscienza di Krishna è impegnata sotto la guida di un maestro spirituale nel sublime servizio d'amore al Signore, non è mai contaminato dai tre guna. Mio caro re, proseguì ancora il Signore, come Kshatriya, tu hai inevitabilmente commesso l'offesa di uccidere degli animali durante la caccia o nel corso della tua politica. Perciò, per ritrovare la tua purezza, segui la pratica del Bhakti Yoga e tieni la mente costantemente assorta in me. Presto verrà il tempo in cui sarai per sempre libero dalle conseguenze di questi atti nefasti. Dalle parole di Krishna sembra che i Kshatriya, benché fossero autorizzati a uccidere animali andando a caccia, non fossero immuni dalle conseguenze di questo atto colpevole. Hanno permesso di farlo, ma non è che non c'è karma. Ci sono i risultati di azioni. Perciò è consigliato verso la fine della vita per uno Kshatriya che aveva commesso questi atti colpevoli di ritirarsi prendere l'ordine di rinuncia e andare via da tutti i suoi impegni materiali e dedicarsi gli ultimi anni a, completamente a puro servizio devozionale per liberarsi da ogni contaminazione materiale. Poco importa dunque il Varna a cui si appartiene, a tutti Kshatriya Vaishya Brahmana è consigliato adottare il sannyas verso la fine dell'esistenza per dedicare completamente se stessi al servizio del Signore e liberarsi così da tutte le conseguenze degli atti colpevoli commessi. Poi al re Muchikunda il Signore predisse: nella tua prossima vita rinascerai come un Vaishnava altamente qualificato, il migliore tra i Brahmana. Allora il tuo unico dovere sarà quello di dedicarti al mio servizio sublime. I Vaishnava sono considerati i Brahmana più elevati perché nessuno, se non ha acquisito le qualità di un vero Brahmana, può diventare un Vaishnava. Il livello di Vaishnava si raggiunge quando si è totalmente dedicati al bene di tutti gli esseri. E la più alta opera di carità consiste nel predicare la coscienza di Krishna. Il Signore indica qui che il suo favore più alto si manifesta nel rendere un essere assolutamente cosciente di Lui e impegnarlo nella divulgazione della filosofia Vaishnava. Così termino l'insegnamento di Bhaktivedanta sul 50° capitolo del libro di Krishna, intitolato La liberazione di Muchikunda. È stato incredibilmente fortunato, ha avuto il darshan diretto, Krishna è venuto proprio a svegliarlo. E questa ultima frase è molto bella, che la più alta opera di carità consiste nel predicare la coscienza di Krishna. La cosa migliore che si può fare per le altre persone è dare la possibilità di risolvere tutti i loro problemi, di risolvere i problemi di fame, di sete, di ricchezza, di povertà, di tornare nel mondo spirituale, divulgando questa conoscenza. Perché Krishna dice molto chiaro nella Bhagavad Gita, chi insegna, chi dà questa conoscenza agli altri è più caro a me. E tutto lo scopo di coscienza di Krishna è diventare caro a Krishna, che Krishna è soddisfatto con il nostro servizio. E lui dice molto chiaro che il servizio che dà più piacere a lui è di condividere questa conoscenza con gli altri, non tenere per noi, per nostra soddisfazione, per stare bene noi, ma di aiutare gli altri progredire nella vita spirituale. Se ognuno di voi ci impegniamo, anche il nostro piccolo, le persone che ci incontriamo intorno, a dare questa conoscenza, il modo più facile dare questa conoscenza è dare un libro di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ci ha dato questo metodo così pratico, così semplice di dai un libro, così loro avranno l'opportunità ripetutamente di ascoltare un puro devoto, di ascoltare questa conoscenza. E noi saremo, lo diamo le più grandi piaceri a Krishna e diventeremo caro a Krishna. Infatti oggi leggevo nella Prabhupada Lilamrita proprio questo punto, che in India c'era un po' questa mentalità, c'è ancora questa mentalità che ognuno deve sentire spontaneamente la sua spiritualità e quindi non esiste, come facevano, come fanno i cristiani, di andare a convertire. Ma il punto è che Prabhupada non voleva convertire, ma voleva aggiungere più che convertire. E Prabhupada diceva no, questa mentalità non è giusta. Infatti chi di noi avrebbe, almeno io personalmente, se non leggevo i libri di Prabhupada, perché tutti abbiamo bisogno di un maestro, avrei seguito un percorso impersonalista e non avrei potuto venire a conoscenza che Dio è una persona che ha una forma e che può avere una relazione con Lui. Quindi questa idea di lasciare ognuno libero, di ogni individuo di trovare la sua spiritualità, non è valido, perché se no a quest'ora non saremo qui a parlare, a leggere le glorie di Krishna. e quindi è molto importante. Prabhupada era anziano eppure è venuto in Occidente per proprio l'amore che aveva per noi, la compassione di volerci aiutare. E dobbiamo ringraziare che lui aveva avuto questa visione chiara che il mondo aveva bisogno di questo messaggio. E quindi era un'aggiunta a qualcosa che, diciamo, qualcosa che c'era già e che va risvegliato in noi. Quindi ringrazio ancora Prabhupada per essere venuto e non aver avuto questa mentalità, ok, ognuno trova il suo, perché non sarebbe stata la stessa cosa. Cioè, se noi siamo condizionati, come possiamo capire cosa scegliere? Come un bambino di 2 anni dire bisogna lasciarlo libero, fare le sue scelte. Come fa un bambino così piccolo a poter fare le sue scelte? Abbiamo bisogno dei genitori, abbiamo bisogno appunto del maestro spirituale nella nostra vita quotidiana, dei suoi insegnamenti, se no ci perdiamo, perché la tendenza è di speculare o di aggiustare secondo i nostri desideri materiali. Mentre Prabhupada nei suoi libri parla molto molto chiaramente della verità, te la dice proprio così com'è, pari pari, diretto. Sentito stasera riguardo al corpo materiale, esatto. Che cosa doveva finire. A volte potrebbe sembrare un po' duro, ma in realtà non è duro, quello è amore. Amore perché ci vuole proprio risvegliare, ci vuole dare proprio la verità così com'è. Dobbiamo far conoscere agli altri le cose più belle. Legge ad alta voce. Jyotirmay dice: è un dovere far conoscere agli altri le cose più preziose che si ha. Se uno ha una medicina, le deve distribuire agli altri. Già, è proprio naturale. Se si ha una medicina per guarire, è chiaro che tenersela per sé non va bene. Sì, volevamo dedicare Namaste a Moreno, che è il papà di Ilaria. Ilaria è la figlia di Devi Radhika, che purtroppo è stato portato all'ospedale d'urgenza per una polmonite Covid. E quindi adesso è in terapia intensiva e sicuramente se preghiamo intensamente e ci concentriamo, anche se non lo conosciamo, noi l'abbiamo visto una volta che era venuto al centro Vaikuntha, comunque raggiungere la sua anima e cercare di dargli tranquillità e sperare che possa superare questo momento così difficile per lui e per tanti come lui, purtroppo. Quindi la prudenza è importante in questo periodo. Namaste. Shing Bhagwan ki jai. Jai Prahlad Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Haribol. Ci vediamo domani sera con la Bhagavad Gita. Domani mattina con la Srimad Bhagavatam, domani sera con la Bhagavad Gita e continua. Alle 20 sempre. Hari Hari. State ascoltando Radio Isvara. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da Radio Isvara @gmail.com. Nuova ricetta di Ramananda Das qui su Radio Isvara. Vi ricordo che potete scriverci radioishvara@gmail.com. Buon ascolto e Hare Krishna. Oggi vediamo come preparare il garam masala. Questa miscela è utile soprattutto nei mesi invernali o quando l'organismo è raffreddato. Altrimenti potete aggiungerla a piatti molto rinfrescanti, contenenti yogurt, patate, frutta fresca, eccetera, per temperarne l'effetto. Occorrente per un barattolo, un cucchiaio di cannella in polvere, un cucchiaino di chiodi di garofano in polvere, due cucchiaini di pepe nero in polvere, un cucchiaio di semi di cumino tostati e macinati, un cucchiaino di noce moscata in polvere, due cucchiaini di semi di cardamomo schiacciati o macinati. Mescolate le spezie ben asciutte e conservatele in un barattolo pulito e asciutto, al fresco e al riparo dalla luce. Thank you.

Srila Prabhupada stava inviando diverse lettere e teneva corrispondenza con molte persone. Tra le altre, il 14 settembre del 1951 ebbe una corrispondenza epistolare con Daniel Bailey dell'American Reporter, un giornale pubblicato dall'ambasciata americana a Nuova Delhi. Abai precisò che la filosofia della comprensione della verità assoluta, come i saggi dell'India avevano realizzato, era più elevata del tentativo di combinare l'Oriente e l'Occidente. Mr. Bailey rispose che era consapevole della filosofia orientale e dell'influenza della religione in Occidente e citò come esempio l'affermazione ottenuta da una missione di yoga nella città di New York, missione che, a suo dire, aveva avuto una certa influenza sui protestanti in America. Quando tuttavia Abai chiese se uno dei suoi articoli poteva apparire sull'American Reporter, Mr. Bailey rispose: se dovessimo dare uno spazio considerevole nell'American Reporter alla Gita, per imparzialità dovremmo dare uguale spazio alle altre filosofie, e il nostro desiderio non è quello di sostenerne o di combatterne qualcuna, ma soltanto quello di contribuire a una maggiore comprensione. Da un ulteriore scambio di lettere risulta chiara la divergenza di opinione tra Abai e Mr. Bailey, che considerava opportuno sollecitare nelle persone un'interpretazione personale della religione. Uomini meno intelligenti sono spesso guidati da coloro che sono dotati di conoscenza superiore in tutte le sfere di vita. Abai scrisse anche alla Fondazione Ford di Detroit, e il personale addetto rispose: mi dispiace di avvertirvi che non siamo in grado di accogliere i vostri suggerimenti a proposito del progetto di formare una classe di persone intelligenti. La Fondazione Ford non contempla programmi in cui le idee da lei delineate possano essere incluse. Benché la maggior parte delle sue idee venisse respinta, occasionalmente egli riceveva parole di apprezzamento. Un certo dottor Muhammad Said, dottore in filosofia e docente all'Università di Allahabad, scrisse: sembra che voi abbiate assimilato l'insegnamento universale dell'antica India, il che è veramente lodevole. Il governatore dell'Uttar Pradesh rispose: sta facendo un ottimo lavoro, perché niente è così nobile quanto essere coscienti di Dio. Non solo Abai dava consigli nelle lettere, ma lasciava intendere anche di poter dare un aiuto pratico. Se avesse potuto ottenere un sostegno istituzionale, egli era disposto a fare molte cose: a dare lezioni, a organizzare templi, a insegnare l'adorazione nei templi, a iniziare devoti, a organizzare vari settori di attività per diffondere i principi della Bhagavad Gita. Generalmente egli non esprimeva chiaramente come le cose avrebbero dovuto essere portate a termine, ma metteva in evidenza i difetti filosofici dei metodi correnti e la superiorità che derivava dal fatto di operare in conformità della letteratura vedica. Per grazia del suo maestro spirituale, conosceva la scienza che permette di applicare i principi della Bhagavad Gita a qualsiasi situazione. Se soltanto qualche persona mostrava un po' di interesse, egli poteva renderla edotta della superiorità che deriva dall'operare in conformità alla Bhagavad Gita. Dopo aver partecipato a un incontro in cui un famoso industriale aveva posto in rilievo l'armoniosa relazione tra lavoro e organizzazione nella sua fabbrica, Abai scrisse una lunga lettera suggerendogli di considerare i buoni effetti che il canto collettivo Hare Krishna può produrre. Poiché la fabbrica disponeva di uno speciale club di impiegati e di una sala di ritrovo, Abai suggeriva che i lavoratori si riunissero e cantassero Hare Krishna. Abai spingeva tutti ad arrendersi a Krishna, ma le persone, per la gran parte, avevano la loro filosofia e lo tacciavano di avere una natura settaria o di amare il proselitismo. ma la Bhagavad Gita era universale, Abai scriveva, ed io non poteva essere ommesso da nessun programma, anche in nome di uno stato secolare. Krishna, in quanto padre degli esseri viventi, aveva la giurisdizione su tutti i programmi, su tutte le organizzazioni e i governi. Soprattutto gli indiani avrebbero dovuto apprezzare la portata della Bhagavad Gita. Benché esistesse sempre un piano d'azione dietro ai suoi suggerimenti, Abai valutava l'interesse della persona con cui era in corrispondenza. L'interesse non era molto sentito e lui veniva smorzato nel suo entusiasmo, ma non si scoraggiava mai. Prevedeva sempre di trovare un simpatizzante. Conservava le copie delle sue lettere e le risposte, una parola di apprezzamento o una leggera manifestazione di interesse da parte di un corrispondente erano sufficienti a determinare da parte di Abai un'altra risposta densa di pensiero. Egli aveva sviluppato un vivo senso di dedizione alla missione di Sri Chaitanya, senza aspettarsi di essere guidato dalla Gaudiya Math. Accarezzava l'idea che i suoi confratelli si sarebbero presto uniti nella predica, ma non aveva impiegato alcuna energia nei Mata, perché far ciò avrebbe significato trovarsi coinvolto in una delle fazioni. Restando libero dalla mischia che divideva all'interno la Gaudiya Math, Abai continuava da solo la sua campagna di corrispondenza epistolare, introducendosi come predicatore della Bhagavad Gita e come redattore della rivista Back to Godhead. Nel 1948 Abai chiuse la sua fabbrica di Lucknow. Era in arretrato con la distribuzione dei salari agli impiegati e dal 1946 stava pagando arretrati nelle rate di affitto. Così, quando il flusso delle vendite diminuì, continuare nell'impresa diventò impossibile e Abai perse ogni cosa. Srila Prabhupada racconta: avevo impiantato un grosso laboratorio a Lucknow. Quelli erano i giorni aurei. I miei affari fiorivano come non mai. Tutti nel settore chimico lo sapevano. Tuttavia, da quel momento ogni cosa gradualmente decrebbe. Con l'aiuto di alcune conoscenze aprì ad Allahabad una piccola fabbrica nella stessa città in cui la sua farmacia Prayaga aveva conosciuto il fallimento 15 anni prima. Egli si trasferì ad Allahabad con suo figlio Brindaban e continuò a fabbricare medicine, mentre il resto della famiglia era rimasto a Banerjee Lane in Calcutta. Abai continuava a viaggiare, ma spesso egli era assente per mesi. Fu allora che fece un secondo sogno. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati apparve di fronte a lui. Di nuovo gli fece dei cenni indicando ad Abai che doveva abbracciare il sannyasa. Di nuovo Abai mise da parte il sogno. Era un capofamiglia con molte responsabilità. Accettare il sannyasa significava abbandonare tutto. Egli doveva guadagnare. Ora aveva 5 figli. Perché il mio guru Maharaj mi chiede di prendere il sannyasa? Egli pensava che per il momento non era possibile. Gli affari di Allahabad erano infruttuosi. Al presente la situazione dei miei affari non è affatto buona, scrisse al suo servitore Goranga, che gli aveva chiesto di riunirsi a lui. Quando le condizioni miglioreranno e se tu sarai libero a quel tempo, io ti chiamerò. Egli aveva lavorato con impegno, ma i risultati erano stati magri. Come per ogni altra cosa, Abai considerò le circostanze del momento con gli occhi delle scritture e non poté fare a meno di pensare al verso dello Srimad Bhagavatam. Yasyaham anugrnami arisieta danam sanai tato dananam tyajanti apsya svajana dukha dukitam. Quando mi sento particolarmente misericordioso verso una persona, gradualmente la libero da tutti i suoi possessi materiali. I suoi parenti e amici allora lo respingono questa persona colpita dalla povertà e dalla miseria. Egli aveva udito Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati citare il verso e ora pensava molto spesso al suo significato. Considerò che le circostanze in cui si trovava erano controllate da Krishna e Krishna lo stava costringendo in una posizione disperata per essere libero di predicare la coscienza di Krishna. Srila Prabhupada racconta: in un modo o nell'altro la mia intenzione di predicare il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu cresceva, ma in un certo senso diminuiva. Non che non mi sentissi incline, ma Krishna mi forzava. Devi abbandonare tutto. La storia è nota, come tutto decrebbe. Nello Srimad Bhagavatam anche la regina Kunti pregava. Mio caro Krishna, tua grazia può essere avvicinato molto facilmente, ma solo da coloro che hanno esaurito ogni desiderio materiale. Chi è sulla via del progresso materiale e cerca di progredire con l'aiuto di una parentela rispettabile, di grandi opulenze, di un'elevata educazione e di un bel corpo, non può avvicinarsi a te con sentimenti sinceri. Così Srila Prabhupada dice: in pratica nel 1950 mi ritirai. Non mi ritirai del tutto, ma ebbi pochi contatti con gli affari, in qualunque modo andassero. In seguito essi si ridussero praticamente a zero. Qualunque cosa fosse andava bene, fa quel che vuoi. Indipendentemente da lui, la moglie decise di trasferirsi con i suoi figli a casa del padre, al numero 72 di via Mahatma Gandhi. Si era convinta che i suoi mezzi di sostentamento stavano diventando precari. Abai trascorreva la maggior parte del suo tempo lontano da casa, si era gradualmente distaccato dalla famiglia. Quando, dopo numerosi mesi, incontrava sua moglie e i suoi figli, il suocero lo criticava. Sei sempre fuori, stai sempre adorando Dio, non ti interessi della mia famiglia. Appena poteva, Abai spediva un po' di denaro ai suoi familiari. Mr. Sudhir Kumar Dutta, nipote di Abai, racconta: talvolta osservavo che egli stava pensando a tante cose, la famiglia, i suoi scritti, al fatto di incrementare gli affari. Che fare? Pensava seriamente di ricavare più denaro dai suoi affari, ma ciò significava che avrebbe dovuto dedicare più tempo ad essi. I suoi scritti non li abbandonava mai, scriveva sempre di più e talvolta la gente lo insultava. Ti stai interessando di religione, eh? Pensi solo a Dio? Allora chi manterrà la tua famiglia? Cosa pensi di fare della tua famiglia? Talvolta egli rispondeva: che cosa mi ha dato la mia famiglia? Perché dovrei dimenticare Dio? Questa è la realtà. Che cosa sto facendo? Non puoi capire ciò che sto facendo. Durante una sua visita a Calcutta, Abai restò a casa del suocero dove aveva una sua stanza. Durante il pranzo, mentre sua moglie lo serviva, Abai notò che tutte le vivande erano state acquistate al mercato. Che cosa accade? Egli chiese. La cuoca è malata oggi, rispose Radharani. Abai pensò: è meglio che non viviamo qui, a casa di tuo padre, altrimenti lei si rovinerà sempre di più. Così trasferì la sua famiglia in una nuova casa sul Chetla Street. Qui talvolta egli si fermava con la famiglia per qualche mese, scriveva articoli e faceva qualche affare, ma trascorreva la maggior parte del tempo ad Allahabad. Ad Allahabad Abai, che ora aveva 54 anni, viveva come vanaprasta, ossia come una persona che si è ritirata dalla vita di famiglia. Era indifferente verso le attività che riguardavano la famiglia e gli affari, attività che generalmente un capofamiglia considera oggetti primari della sua responsabilità e felicità. Nei suoi scritti Abai aveva discusso molto spesso dei quattro ashram, ossia delle quattro divisioni della società vedica: brahmacharya, grihasta, vanaprasta e sannyasa. Nella prima divisione, il brahmacharya ashram, un ragazzo era inviato dai genitori a casa del guru, nella gurukula, dove viveva una vita semplice, studiando la letteratura vedica sotto la guida del suo guru. Così, nell'infanzia e nella giovinezza, egli apprendeva i principi dell'austerità e la conoscenza spirituale che costituisce la base dell'intera esistenza. All'età di 21 anni, il brahmachari poteva prendere moglie ed entrava così nell'ashram successivo, il grihasta ashram. Oppure, come Bhaktisiddhanta Sarasvati, poteva scegliere di restare brahmachari per tutta la vita. Nella sua adolescenza Abai era rimasto celibe e aveva assimilato i principi della devozione per Krishna da suo padre e da sua madre. Benché egli vivesse a casa, la sua educazione equivaleva a quella del brahmachari. Con il matrimonio, all'età di 21 anni, egli era entrato nel grihasta ashram al momento giusto. L'esempio di Gaur Mohan aveva mostrato ad Abai come restare un devoto di Krishna, anche vivendo in famiglia. In quanto Vaishnava, Abai e sua moglie avevano evitato gli eccessi di una vita di famiglia ispirata al materialismo. Si presupponeva che a 50 anni un uomo si ritirasse dalle attività materiali, stadio questo che è definito vanaprasta. Nel vanaprasta ashram entrambi, marito e moglie, concordemente si astengono da ulteriori rapporti sessuali. Possono continuare a vivere insieme, ma il significato di quest'unione è la spiritualità. Come vanaprastra possono visitare insieme i luoghi santi dell'India, preparandosi per l'inevitabile partenza dal mondo materiale. Così gli ashram vedici, dopo aver concesso di portare a compimento la vita materiale, rendono idonei a concludere il ciclo ripetuto di nascite e morti e permettono di raggiungere l'eternità del mondo spirituale. Osservando il suo corpo, un uomo di 50 anni dovrebbe essere in grado di capire che sta invecchiando, che la morte inevitabile sta per arrivare e dovrebbe avere il buon senso di prepararsi all'evento. Nella tappa conclusiva, il sannyasa ashram, l'uomo affida la moglie alle cure del figlio adulto e si dedica in modo completo al servizio del Signore Supremo. Un tempo il sannyasa ashram era dedicato a una vita solitaria di penitenza sull'Himalaya, ma secondo la linea della Gaudiya Vaishnava, Srila Bhaktisiddhanta ha messo in risalto l'importanza della predica. Benché Abai non avesse formalmente definito il suo status nell'ambito dei quattro ashram, apparentemente viveva più come un vanaprasta che come grihasta. Considerò il fallimento dei suoi affari, la situazione spiacevole della sua vita di famiglia, come benedizioni di Krishna, che lo avevano liberato dalle responsabilità familiari e lo avevano generosamente orientato verso il compimento dell'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che lo voleva predicatore. Ad Allahabad, Abai fece in modo di salvare il denaro sufficiente per dare nuova vita alla stampa del Back to Godet e nel febbraio del 1952 dal suo ufficio editoriale e abitazione al 57B di Canning Road la prima edizione dopo 8 anni vide la luce. Come era accaduto precedentemente, aveva fatto ogni cosa da sé. Aveva scritto, battuto a macchina, stampato, redatto, aveva trattato con lo stampatore e infine aveva distribuito a mano le copie e le aveva anche inviate ai capi rispettabili dell'intera India. Questa, egli sentiva, era la vera motivazione per vivere ad Allahabad o in qualsiasi altro posto. Questo era il miglior uso del denaro, lo scopo della vita umana. Impegnarsi completamente nella glorificazione del Signore Supremo. Il resto era temporaneo e ben presto sarebbe andato perduto. Quando visitava la sua famiglia a Calcutta, i vecchi amici si riunivano nella sua stanza e Abai predicava e dava lezioni sulla Bhagavad Gita. Abai invitava sua moglie e i suoi figli a prender parte alle discussioni, ma essi, risolutamente, rimanevano nelle stanze superiori, spesso bevendo il tè, in un atteggiamento di sfida verso la sua predica. Abai li sopportava, restava ancora in loro compagnia, ma si sentiva incline a predicare, ed essi non stavano rendendo attraente questa sua disposizione a esercitare la predica nell'ambito della famiglia. Se doveva essere vita di famiglia per Abai, allora sua moglie e i suoi figli avrebbero dovuto riconoscere di essere felici del fatto che egli stava diventando un predicatore veramente esperto. Avrebbero dovuto capire che l'interesse della vita consiste nel servire la missione del proprio maestro spirituale. Non potevano limitarsi a ignorare la sua trasformazione. Non avrebbero dovuto insistere affermando che lui era un uomo comune. Abai cercò in ogni modo di trascinare sua moglie nella speranza che a poco lei lo seguisse nella sua vita di predica. Ma la moglie non mostrò mai il benché minimo interesse per la predica del marito. Perché allora avrebbe dovuto trascorrere i suoi giorni preoccupandosi della famiglia, dei medicinali e del denaro? I suoi parenti lo criticavano. Ma Back to Godet era il vero servizio che egli rendeva all'intera famiglia, costituita dal genere umano. Madhavendra Puri, un grande precettore spirituale, predecessore di Sri Chaitanya, aveva parlato dell'indifferenza dei devoti per le critiche mondane. O esseri celesti e antenati, vi prego di scusarmi. Sono incapace di presentarvi altre offerte per il vostro piacere. Ora ho deciso di liberarmi dalle reazioni delle colpe, ricordando sempre e dovunque il grande discendente degli Yadu e il grande nemico di Kamsa, Sri Krishna. Penso che ciò sia sufficiente per me, perciò che utilità c'è nel fare ulteriori sforzi? Gli acuti moralismi mi accusino di essere un illuso. Non mi importa. Gli esperti di attività vediche mi diffamino dicendo che mi sono lasciato sviare. I miei parenti e amici dicano pure che sono frustrato. I miei fratelli mi chiamino sciocco. I ricchi adoratori del denaro mi considerino pazzo e i colti filosofi sostengano che sono un presuntuoso. Eppure la mia mente non si sposterà neppure di un millimetro dalla determinazione di servire i piedi di loto di Govinda. Perché io ne sia incapace. Perché Abai avrebbe dovuto sprecare il suo tempo con i trascurabili problemi familiari quando aveva risposte per i problemi dell'India e del mondo? Come conoscitore della Bhagavad Gita, egli sentiva che il suo obbligo primario era quello di offrire soluzioni alle complicate crisi della guerra, della fame, dell'immoralità, del crimine, tutti i sintomi dell'assenza di Dio. E se il fatto di dedicarsi a quest'opera significava che altre minori responsabilità ne soffrissero, allora non vi era perdita. Nel marzo del 1952 Abai pubblicò un altro numero del Back to Godhead. Era dedicato in gran parte a un articolo biografico che Abai aveva scritto su Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e sul padre di Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakura. Egli, Bhaktivinoda Thakura, protestava con veemenza contro i principi di quegli pseudo-trascendentalisti che allora erano accettati in nome di Sri Chaitanya. Egli aveva iniziato un movimento di riforma con contributi letterari mentre era ancora impegnato come alto funzionario del governo. Durante la sua vita di famiglia, pur svolgendo servizio come magistrato, egli aveva scritto libri di vario genere, in bengali, in inglese, in sanscrito e in altre lingue, al fine di presentare un quadro corrispondente alla realtà delle pure attività devozionali da offrire a Sri Chaitanya. Fin dalla sua prima infanzia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj ricevette ispirazione circa il movimento inaugurato da Srila Bhaktivinoda Thakura. Aveva lavorato come segretario privato di Srila Bhaktivinoda Thakura e in questo modo Bhaktivinoda Thakura concesse a lui, Srila Sarasvati Thakura, il potere trascendentale di procuratore per sposare la causa di Sri Chaitanya. Così, dopo la scomparsa di Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Sarasvati Thakura prese le redini del movimento di riforma. Assorto nella produzione mensile del giornale, Abai si occupava solo superficialmente delle altre attività. Talvolta viaggiava per affari, oppure, prendendo ad Allahabad il treno diretto a Calcutta, visitava la sua famiglia. Quando il suo scompartimento non era affollato, accendeva la luce mentre gli altri dormivano. Partire con un treno della notte offriva l'opportunità di pensare e anche di scrivere. Talvolta egli dormiva per qualche ora e poi si sedeva e guardava dal finestrino, solo per vedere la notte e le luci riflesse dello scompartimento brillare dietro di lui e le finestre che riflettevano il suo volto. A metà strada, nel corso del suo viaggio di 12 ore, il cielo si schiariva trasformandosi da grigio in blu chiaro e le prime nubi bianche apparivano nel cielo. Poteva vedere le luci della città e udire il fischio del treno che avvertiva del suo arrivo. Quando il treno rallentava e si fermava in una stazione, i venditori di tè camminavano per tutta la lunghezza del treno, gridando «Chai, chai, chai!». Il loro richiamo cadenzato riempiva gli orecchi. «Chai!». E il chai riempiva l'aria del suo aroma, mentre centinaia di passeggeri sorseggiavano il tè mattutino. Durante i 20 anni e più di viaggi molto lunghi sul treno, Abai aveva osservato che in numero sempre crescente la gente fumava sigarette e un numero sempre più grande di donne viaggiava senza compagnia. L'India si stava occidentalizzando. I capi nazionalisti avevano provveduto a pavimentare la strada. Il cieco guida il cieco. Volevano il regno di Dio senza Dio. Volevano un'India progredita e industrializzata senza Krishna. Dal finestrino poteva vedere campi estesi lasciati incolti, eppure la gente era affamata. Talvolta Abai leggeva un giornale e ritagliava un articolo che sembrava garantire una risposta sul Back to Godhead, oppure aveva acceso in lui un'idea per un saggio. Egli voleva riflettere sul modo di avvicinare la gente per assisterla, sapere chi avvicinare e come dare via a una società di devoti coscienti di Krishna. Non solo la popolazione dell'India, ma tutti nel mondo potevano aderire alla coscienza di Krishna. Il Chaitanya Bhagavata aveva predetto che il nome di Sri Chaitanya un giorno sarebbe stato noto in ogni città e in ogni villaggio. Era stato desiderio di Srila Bhaktisiddhanta che ciò accadesse. Egli aveva inviato predicatori in Inghilterra, ma questi avevano ottenuto soltanto una visita di protocollo alla famiglia reale. Avevano fatto la coda, si erano inchinati dinanzi alla corona e poi erano tornati in India senza aver effettuato alcuna trasformazione tra gli uomini dell'Occidente. Abai pensava di inviare all'estero Back to Godhead. I suoi agenti, Teachers, Spine and Company, avevano contatti in America e in Europa. In tutto il mondo la gente era in grado di leggere in inglese e alcuni sicuramente avrebbero apprezzato le idee della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam. Questo era ciò che Srila Bhaktisiddhanta voleva. La coscienza di Krishna non era destinata soltanto all'India, era il dono più grande dell'India ed era per tutti. E siamo così arrivati al settimo capitolo, intitolato Jhansi, la lega dei devoti. Si cercano candidati di ogni nazionalità, desiderosi di qualificarsi come veri bramini, allo scopo di predicare gli insegnamenti della Bhagavad Gita a tutti i fini pratici da un capo all'altro del mondo. I candidati meritevoli riceveranno vitto e alloggio gratuito. Rivolgersi a A.C. Bhaktivedanta, fondatore e segretario della Lega dei Devoti, Bharati Bhavan, P.O. Jhansi, Abai Charan De. Era un altro viaggio di 12 ore con dozzine di fermate. Il treno, avanzando con frastuono, si scuoteva e il suo alterno dondolio rendeva difficile lo scrivere. All'interno dello squallido scompartimento i passeggeri si guardavano l'un l'altro con compiacenza e la fuliggine e la polvere entravano dai finestrini aperti mentre il treno proseguiva la sua corsa. Fuori, passati i monotoni argini di grosse pietre, il luminoso violetto di fiori a corolla splendeva sugli alti steli nei bassi fossati del binario. Bufali e buoi pascolavano a distanza e talvolta tiravano un aratro davanti a un contadino solitario. Abai stava andando a Jhansi, non per lavoro ma per predicare. Un mese prima, nell'ottobre del 1952, durante una visita di affari a Jhansi, Mr. Duby, un cliente proprietario dell'ospedale di quella città, aveva invitato Abai a tenere una conferenza al Gita Mandir. Molte persone a Jhansi apprezzavano i discorsi di carattere religioso e umanitario, sia che provenissero da Vaishnava, sia da teosofi, da mayavadi, da politici o da qualsiasi altra categoria di persone. E essi consideravano Dharma quasi tutte le vie con cui venivano a contatto, purché esprimessero una qualche edificante pietà o fossero tese al benessere pubblico. Mr. Davy aveva letto con interesse alcuni numeri del Back to Godhead e per questa ragione aveva chiesto ad Abai di parlare. Abai ne aveva un gran desiderio e aveva riscontrato un vivo interesse nell'uditorio di oltre un centinaio di persone, tra cui molti giovani studenti e laureati della locale università ayurvedica. Abai aveva 56 anni e la sua eccellente presentazione della coscienza di Krishna aveva colpito i giovani di Jhansi, inclini alla religione. Prabhakar Mishra, un giovane di 25 anni, direttore dell'Università di Sanskrito Vedanta e ufficiale sanitario dell'Università Ayurvedica di Jhansi, notò che Abai era molto energico nel suo desiderio di diffondere la coscienza di Krishna. Il dottor Mishra lo considerò una specie di guru, benché vestisse di bianco. Questa è una persona umile, pensò, un vero sadhu. Basso e tarchiato, il dottor Shastri, all'inizio della sua carriera nella medicina ayurvedica, era un giovane attivo, affascinato dalla purezza di Abai e dalla sua visione di un movimento mondiale per la diffusione della cultura indiana. Uomini più anziani come l'incredibile e affabile Ramcharan Hayaram Mitra, il titolare di un negozio di utensileria che scriveva poesie e indossava il berretto bianco di Nehru, voleva sentir parlare più a fondo di Sri Chaitanya da Abai. Il dottor Mullik, che era il segretario del Gita Mandir, e il dottor Siddhi dell'università, insieme con le loro mogli, avevano con sincerità avvicinato Abai dopo il suo discorso e gli avevano chiesto il favore di visitare di nuovo Jhansi. Abai si era recato da loro non come venditore di medicinali o come uomo che si interessava della famiglia, ma come un semplice devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu, benché le specifiche applicazioni della coscienza di Krishna lasciate da Srila Bhaktisiddhanta fossero nuove per gli ascoltatori, tali insegnamenti avevano suscitato interesse in loro. E quando più Abai li aveva resi noti e aveva parlato della sua ambizione di diffondere il messaggio di Krishna, tanto più gli ascoltatori lo avevano incoraggiato. Alcuni di loro gli suggerirono di svolgere la sua missione a Jhansi e promisero di aiutarlo. Il dottor Shastri aveva anche invitato Abai a vivere con lui. Voleva far conoscere Abai ai cittadini importanti e organizzare lezioni nei vari luoghi di ritrovo di quella città. Dopo essere rimasto per 10 giorni là, Abai tornò ad Allahabad, ma il ricordo di Jhansi gli impediva di concentrarsi sui suoi affari. Qualcosa di più importante occupava la sua mente: la necessità di un'associazione di devoti che propagassero gli insegnamenti e la pratica della coscienza di Krishna nel mondo. Con la Gaudiya Math ridotta a brandelli dai permanenti scismi, i confratelli amministravano i loro ashram privati in locali separati ed erano apparentemente refrattari a ogni riconciliazione. In qualche modo si doveva agire. Se l'opprimente atmosfera di ateismo doveva essere corretta, secondo le previsioni di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, doveva emergere una lega di predicatori che svolgessero attività a livello internazionale. Gli stati nel mondo avevano cercato l'unità in una Lega delle Nazioni e avevano fondato da poco le Nazioni Unite. La Lega aveva fallito e la stessa fine avrebbe fatto anche le Nazioni Unite, se non si riconosceva la vera unità e uguaglianza spirituale di tutti gli esseri viventi dovute all'intima relazione che unisce gli esseri a Dio, la persona suprema. Abai non si aspettava alcun risultato positivo da queste organizzazioni, benché esse aspirassero alla pace e all'unità. I loro tentativi non erano che un altro aspetto dell'ateismo. No, creare la pace e l'unità era il suo dovere di Vaishnava. Così Abai aveva maturato il pensiero che forse un luogo conveniente per dare l'avvio a un'organizzazione di devoti poteva essere Jhansi. Non era una grande città, ma almeno là egli aveva trovato persone interessate. Gli studenti avrebbero ascoltato e aderito, aggiungendo che avrebbe offerto il loro aiuto. Abai aveva percepito una certa mancanza di sincerità e di intensità nel loro apprezzamento e un sentimentalismo che aveva suscitato in lui qualche dubbio sulla loro serietà. Ma se avesse potuto trovare anche pochi o uno solo che fosse serio, allora si sarebbe accinto all'impresa. Voleva predicare, questa era la sua missione. Inoltre stava già invecchiando. Se si doveva dare inizio a qualcosa, doveva essere ora. Fu così che partì di nuovo per Jhansi, senza definire la durata del suo soggiorno. Senza interessarsi molto dei suoi affari di Allahabad, affidò il commercio di medicinali al figlio e al nipote, informandoli che stava partendo per Jhansi. Mentre il treno entrava nella stazione, Abai vide il dottor Shastri che con energica energia gli faceva gesti di saluto. Viaggiarono insieme su un tanga fino al dispensario del dottor Shastri, mentre il loquace e affabile dottore gli comunicava che vi sarebbero state buone opportunità di predica e interviste. Il dottor Shastri gli parlò delle tradizioni di Jhansi. La zona su cui sorgeva l'attuale città era stata un tempo parte della foresta dove Sri Ramachandra aveva praticato l'austerità molte migliaia di anni prima. I Pandava erano vissuti là durante il loro esilio e fin da allora molti grandi saggi avevano avuto in quella zona i loro eremitaggi. Jhansi era stata anche la patria di un'eroina indiana, Lakshmibai, che verso la metà del XIX secolo aveva preso parte al movimento allora emergente per l'indipendenza dell'India. Statue e pitture di Lakshmibai a cavallo che reggeva una spada con la mano alzata erano esposte in tutta la città. Nel 1952, tuttavia, Jhansi era una povera, affollata città dalle vie sporche ed era dotata di scarsissime attrattive tecnologiche. Il dottor Shastri viveva solo in un edificio a due piani sulla Sipri Bazar di Jhansi. Al primo piano vi era la sua clinica e al secondo la sua unica stanza di residenza che egli si era offerto di dividere con Abai. Il giovane ma influente medico era la persona adatta per presentare Abai ai cittadini ricettivi di Jhansi. Espansivo ed energico, il dottore si muoveva liberamente tra la gente della sua città. Era rispettoso verso Abai, che aveva il doppio dei suoi anni, e lo apprezzava per la sua ferma determinazione di filosofo Vaishnava, oltre che per il suo modo di vivere. Il dottor Shastri considerò che fosse suo dovere aiutare Abai e fu lieto di introdurlo agli altri e di organizzare le lezioni. Abai e il dottor Shastri cucinavano insieme come membri della stessa famiglia. Abai gli rivelò la sua idea di fondare una Lega di Devoti, un'organizzazione con finalità internazionali, ma con base a Jhansi. I cittadini di Jhansi, gli diceva, avrebbero contribuito a diffondere la missione di Sri Chaitanya e di Krishna. Sri Chaitanya aveva affermato che gli indiani avevano una particolare responsabilità nella diffusione della coscienza di Krishna, sia in India che nel mondo. Il dottor Shastri racconta: nel suo cuore egli ardeva sempre al pensiero che il mondo intero soffriva per la concezione materialistica della vita. Ogni persona è impegnata nel mangiare, nel bere e nel divertirsi. Perciò tutto il giorno egli viaggiava e predicava la missione che Sri Chaitanya e il suo Guru Maharaj gli avevano assegnato. Era dotato di ferrea determinazione e di fiducia in se stesso per la sua missione. Non aveva alcun dubbio. Era un Dhira Vrata, inflessibilmente determinato. In realtà egli stava sempre predicando Arer Nama, Arer Nama, Arer Naima, Eva Kevalam, Kalaunasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Eva Gatira, Agnata. Non c'è altra via eccetto l'Hare Krishna Nama. Così discuteva sempre, talvolta per tutta la notte. Ne parlava con me e talvolta io mi sentivo stanco. «Ti prego, non disturbarmi, lasciami dormire», gli chiedevo. Ed egli, l'anziano missionario lavoratore, era come un ragazzo. Io ero un ragazzo e lui era proprio come un amico, mio fratello maggiore. Egli era per me una guida e un maestro. Perché il predicatore è amico, filosofo e guida. Egli stava sempre cercando di creare una buona atmosfera mediante lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita. L'intera Bhagavad Gita era la sua vita pratica. La sua non era una missione unicamente di predica, ma azione pratica. Stava anche cercando di accalappiarmi per la sua missione e io cercavo di sfuggirgli. Non pensavo che avrebbe fatto dei miracoli per la rivoluzione spirituale del mondo, benché fosse a questo fine che lui ci spingeva. Mentre il dottor Shastri si dedicava alla sua clinica, Abai si sedeva e parlava con i pazienti del dottore. Occasionalmente consigliava qualche medicina, ma prevalentemente predicava. Per il momento era contento di vivere e di predicare a Jhansi. Questa era la vita. Le persone erano ricettive. Quando egli le spingeva a cantare Hare Krishna, aderivano. Il suo desiderio e la sua determinazione di abbandonare ogni altra cosa per predicare giorno e notte, dipendendo da Krishna per i risultati, stavano aumentando. Egli cominciò regolarmente a dare lezioni e a fare kirtan, partecipando a vari programmi nella città, talvolta più di un programma in un solo giorno. Di domenica dava una conferenza al Sadhana Mandir, un altro giorno della settimana al Gita Mandir, un altro alla Società Teosofica e teneva regolarmente conferenze in case private. Chris Rammitra, il negoziante poeta, manteneva un tempio di Shiva situato nei pressi della sua abitazione e Abai cominciò a tenere lezioni a Kirtan là. Talvolta Mr. Mitra parlava della Bhagavad Gita in hindi al Sadhana Mandir e Abai assisteva. Talvolta Abai andava a far visita a Mr. Mitra nel suo negozio di utensili. Il negozio era situato in un affollato bazar di Jhansi e si apriva sulla via che ferveva di attività. Abai si sedeva come un cliente ordinario tra mucchi di secchi di acciaio inossidabile, tra piatti, ciotole e lota, e parlava della Chaitanya Charitamrita come con Mr. Mitra e i suoi amici. Oppure talvolta ascoltava parlare Mr. Mitra del libro di poesie da lui pubblicato e della sua fama letteraria. Per oggi siamo giunti al termine del nostro tempo dedicato alla lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, il capitolo intitolato Jhansi, la Lega dei Devoti. Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. State ascoltando Radio Isvara.